Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Vincent Noten e Bruno Boileau, sposi, nella salle de rencontre del municipio di Montpellier, hanno coronato, per usare un linguaggio classico in una storia per niente classica, il loro sogno d'amore. Due uomini nella Francia che solo 11 giorni fa ha detto il suo oui ai matrimoni gay. La presenza di qualche ministro che si premura di precisare di essere lì in forma privata, CNN e Al Jazeera che assicurano una copertura TV ad ampio raggio. Una notizia è notizia, non si può mascherare. Parigi. Mentre migliaia di persone stanno lasciando la piazza nei pressi della Tour Eiffel, dove avevano manifestato contro la legge sulle nozze gay e le adozioni da parte di genitori dello stesso sesso, le frange più violente del corteo si staccano e affrontano le forze dell'ordine. Iniziano a volare pietre, bottiglie, oggetti di ogni tipo. La polizia carica. C'è chi addirittura parla che in Francia, dice che in Francia si stia creando le premesse di un nuovo 68, ma per paradosso l'argomento, il tema scatenante di questo nuovo 68 non è un conflitto generazionale, non è un'ansia di rinnovamento, non è una spallata al mondo vecchio, non è una fantasia che dovrebbe sovrapporsi e sovrascrivere tutte le muffite regole del mondo antico, no, è qualcosa di totalmente diverso, qualcosa di sconvolgente, è una tenace, dura, violenta, feroce reazione a un altrettanto, forse sopra le righe, esaltazione di un fenomeno che dovrebbe rientrare nella più banale normalità, nell'accettazione di un passaggio ormai irreversibile nel nostro processo di civilizzazione, che è quella fra le unioni sancite, regolari, non condannate, tra persone dello stesso sesso. Su questo oggi vorrei proprio interrogarmi. Mentre la Francia sembra scossa, o perlomeno l'amplificazione dei media è tale per cui è diventato un problema di tipo internazionale, dal fatto che ci sia il paese così fortemente, radicalmente diviso e spaccato sul fatto se accettare o no, ma dal momento che è passata la legge è stato già istituzionalizzato che si è accettato il senso che anche due persone dello stesso sesso possano avere una regolare unione, e un paese come il nostro in cui accadono episodi, anche questi diventano episodi giustamente da prima pagina, di un ragazzo che si butta dalla finestra, un giovane adolescente a 16 anni, per fortuna c'era un'automobile a attutire il colpo, se no stava al terzo piano, questa mattina parleremmo di un morto, ma non sarebbe il primo morto, già è successo qualche tempo fa, perché a scuola lo prendevano in giro perché fosse gay, pare fosse gay, già i titoli dei giornali, deriso perché gay, che questo mi sembra una forte violenza, dare già per scontato qualcosa che lui ancora non ha deciso, ammesso che le cose siano così, a rendere pubblico, a esternare, a dichiarare. Ma in più c'è anche una circostanza additiva, perché il padre pare sconvolto da questa notizia che il figlio non fosse allineato secondo i canoni dell'ortodossia nelle sue scelte sessuali e emotive, ne facesse un oggetto di derisione anche in famiglia, quindi colpito da tutte le parti, quindi sentendosi totalmente pesce fuor d'acqua, questo ragazzo lancia su Facebook che è l'unica sicurezza che la sua voce possa essere ascoltata, il suo commiato dal mondo, e poi si butta dalla finestra. Non è morto, però è in prognosi riservata, quindi è stato un gesto comunque grave, pesante. Beh, voi come la pensate? È veramente un grande problema quello della scelta sessuale, in un momento in cui in realtà i modelli classici maschio e femmina sono ormai così risibili, così sfumati, così vaghi, non esiste famiglia, gruppo di amici, raggruppamento umano, persona con cui parli che alla fine non venga nella biografia, nell'esperienza, nelle conoscenze, nel proprio bagaglio di rapporti sentimentali sessuali, fuori il fatto che comunque esiste ormai percepibile, verificabile, una sorta di deriva che non decide più che gli uomini vanno con le donne vanno con gli uomini, finisce lì. ieri. No, è diverso, esiste una sfumatura che ormai fa parte della società. E perché fa così paura questo? Certo, tutti abbiamo dentro noi un retaggio di pregiudizio, di pudore, di non capacità di gestire fino in fondo questa cosa, ma perché ancora deve sfociare in comportamenti così vigliacchi, così repressivi, così discriminatori da portare persone al suicidio? Beh, pensateci e raccontatemelo. 800240024. C'è Davide, il quindicenne dai pantaloni rosa, che si è tolto la vita. Ci sono Luigi e Nicolas, aggrediti e picchiati all'uscita da un locale romano, e poi Marius, romeno, preso a martellate in un internet point di Palermo. Tutti colpevoli di essere omosessuali. Un quarto dei gay, secondo una ricerca europea, ha subito attacchi o minacce negli ultimi 5 anni. Lui aveva 15 anni, andava al liceo scientifico a Roma, lo studio, gli amici, la famiglia. Non sappiamo molto della sua vita. Sappiamo però che amava vestirsi di rosa, che qualche giorno fa si era messo lo smalto alle unghie. Sembra che per questo un professore l'abbia anche ripreso in pubblico. Era eccentrico e molti dei suoi coetanei dicevano che era gay. Questa è una situazione di alcuni episodi di cronaca avvenuti in Italia negli ultimi mesi, e la costante è questa. Sembra ci sia una rabbia folle, una rabbia inaudita, perché improvvisamente, nel momento in cui almeno il processo di mutazione, poi può piacere o non piacere, ma è così, è un dato di fatto, fa sì che emerga sempre più, venga in superficie il fatto che non esiste più una così netta distinzione nella propria possibilità di rapportarsi in maniera affettiva, in maniera relazionale, anche sessuale, tra le persone, e sfoga ancora di più, scoppia, esplode ancora di più la rabbia nei confronti di queste persone. Poi ci sono forme di protesta radicale, probabilmente più legate a un convincimento talmente profondo e talmente radicato che porta a fare un gesto clamoroso come quello di uno scrittore francese che, per protestare contro questa deriva della civiltà, come lui l'avrà definita, è andato a suicidarsi sull'altare di Notre Dame. Ci vorrà un gesto nuovo, spettacolare e simbolico, per scuotere la sonnolenza, scrollare le coscienze anestetizzate e risvegliare la memoria delle nostre origini. Con queste parole Dominique Venne ha affidato al suo blog l'ultimo messaggio, dove annuncia le sue intenzioni. Un gesto spettacolare per protestare contro la legge che autorizza i matrimoni gay, recentemente approvata in Francia, non senza polemiche e manifestazioni di ogni genere, favorevoli e contrari. Ed è stato davvero eclatante il suo gesto, si è sparato... Buongiorno da Parigi a Marco Mussanè, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Mussanè è il collega che per il Sole 24 Ore fa le corrispondenze a Parigi. Questa mattina al giornale Radio 24 ci ha raccontato la vicenda del grande matrimonio spettacolare a Montpellier. Mi sembra aver capito che tu hai detto nel tuo servizio, speriamo che sia la prima e l'ultima volta che tanta televisione e tanta attenzione vanno in un episodio come questo. Perché hai fatto questa riflessione? Beh, perché se è comprensibile che il primo matrimonio omosessuale in Francia sia un evento mediatico, la tensione che si è accumulata in questi mesi su questa vicenda, sarebbe bene che venisse superata dalla presa di coscienza che, favorevoli o contrari che si sia, c'è stato un processo democratico di formazione, di votazione di un provvedimento legislativo. Mi sembra che la cosa migliore sia a questo punto prenderne atto e consentire che anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso possano diventare dei momenti privati, normali, senza clamore e senza particolare attenzione. Beh, in particolare questa prima coppia attività. Aveva il senso di dare un esempio anche iconografico di quello che accade, il fatto che sono andate in televisione da tutto il mondo, c'è stata attenzione, anche uno studio particolare, diciamo, la città di Montpellier non è stata scelta a caso, mi sembra sia una città particolarmente sensibile o segnata da questo punto di vista di apertura verso questo tipo di espressione umana, o sbaglio? Sì, sì, Montpellier è definita nelle guide di tutte le associazioni gay francesi, definita la città più gay friendly di Francia, quindi sicuramente non è stata scelta a caso, e ripeto, è assolutamente comprensibile che questo primo matrimonio sia stato un evento, dico semplicemente che sarebbe un grande segno di maturità del paese se il secondo non lo fosse più. Senti, l'attenzione che danno anche gli organi di stampa nel resto del mondo verso la reazione che c'è in Francia, è esagerato? Realmente è vero che questo sta in qualche maniera creando un movimento di reazione che sembra che sconvolga il paese, che sembra che veramente ci sia chi stia immaginando che si stia capovolgendo il mondo per una cosa così semplice, così banale? Ma ecco, io vorrei fare un'osservazione su questi termini che stai usando, semplice, banale, normalità. Ecco, io trovo che invece non ci sia mai assolutamente nulla di normale, di semplice o di banale nell'estensione dei diritti a delle minoranze. Questo rappresenta sempre, ha sempre rappresentato, continua a rappresentare e credo che continuerà a rappresentare sempre un problema. Sì, ma non dovrebbe rappresentare banale in questo. Ma io sai, trovo che non dovrebbe rappresentare un problema per gli altri. Se una fetta di umanità è riuscita a raggiungere un obiettivo a cui teneva, non potrei essere che contento. Cosa mi dovrebbe cambiare a me? Perché devo andare a protestare e suicidarmi sull'altare? Non è che si oscura il mondo, questo la vedo così io. No, un attimo, cerchiamo di capire bene e di capire bene anche le diverse reazioni e il contesto in cui questa vicenda si colloca. Beh, intanto, la prima osservazione, non esiste in realtà una contestazione radicale al matrimonio omosessuale e peraltro anche tutti i sondaggi presso l'opinione pubblica dicono che i francesi sono largamente favorevoli. Il problema nasce sull'adozione, sul tema specifico della possibilità per le coppie omosessuali di adottare dei bambini. Questo è il vero terreno di scontro e francamente posso capire che questo possa essere un problema possa essere vissuto come un problema per molte persone che temono che questo sia in qualche modo un primo passo verso un cambiamento sociale, di approccio rispetto a valori consolidati della comunità sociale che possono creare dei problemi. Quindi già la paura capire per il passo successivo, non tanto per quello che è accaduto. Esatto. Teniamo presente, tra l'altro, sul movimento di opposizione c'è da fare una piccola c'è stato un piccolo chiarimento, cioè da un lato il grande movimento di opposizione in qualche modo pacifico e democratico che è rappresentato in larga parte da comunità che in qualche modo fanno riferimento alla Chiesa Cattolica. E anche qui un altro breve inciso, il presidente Hollande, il Partito Socialista hanno in qualche modo sottovalutato la possibile reazione della Francia profonda, della maggioranza silenziosa a questa legge. Basta andare nelle chiese dei centri, delle grandi città per rendersi conto che sono piene anche di giovani, quindi c'è un grande ritorno anche di ricerca di spiritualità, di valori che spesso non si trovano altrove, e questo sicuramente è un elemento importante. E su questo, onestamente, c'è una posizione radicale dei gruppi, dei gruppuscoli dell'estrema destra, ma questo mi sembra francamente un fenomeno marginale. Repubblica oggi titola: c'è un clima da guerra civile, la destra fomenta la rivolta. Repubblica appartiene alla categoria dei giornali che dovrebbero riflettere seriamente sui motivi per cui la stampa è in crisi, e cioè cominciare a dare notizie per come sono e non per drogare il lettore, insomma. Ai titoli di Repubblica siamo abituati tutti da tempo, dovremmo cominciare a farne a meno. No, tu che stai a Parigi, quindi non c'è persona migliore che te in questo momento per ridarmi un punto di esattezza. Io trovo logico, scusami, trovo logico che ci sia un malcontento nella fetta confessionalmente allineata con i dettami della Chiesa, se logicamente il prete al pulpito dice la Chiesa dice questo, se loro sono buoni cattolici quello devono pensare, su quello non ho nulla da obiettare. Se la io ho visto anche delle foto qualche settimana fa di ragazzi che imitavano le femmine addirittura, che poi in realtà erano delle icone gay vere e proprie, che con scritto a torso nudo davanti alla Tour Eiffel, con scritto no alle nozze gay e via dicendo, varie manifestazioni folcloristiche. Però se tu su questo ci rassicuri che in realtà sono fenomeni più che altro limitati di facciata. No, intendiamoci, non c'è alcun clima di guerra civile. Ecco, beh, questo ci fa già molto piacere, sì. C'è un confronto che peraltro fino ad oggi, ripeto, a parte alcuni episodi e alcune manifestazioni inevitabili, alcuni scivoloni che hanno a che fare appunto con la presenza dei soliti gruppuscoli dell'estrema destra, di chi va alle manifestazioni con l'obiettivo unico di scontrarsi con la polizia, di creare dei problemi, ma come dire, fino adesso è stato un vero confronto democratico, civile, con tanta gente che è scesa in piazza per esprimere i propri timori, le proprie paure, comprensibili, ripeto, perché se è vero che d'un lato è assolutamente logico che la società faccia dei passi avanti e registri in qualche modo dei cambiamenti che avvengono al proprio interno, ed è compito, grazie a Dio, della classe politica di capire queste trasformazioni e di adottare le misure che deve adottare, dall'altro lato però non va dimenticato ed è assolutamente nella realtà dei fatti che la Francia è un paese di destra, è un paese conservatore, è un paese tradizionalista, è un paese che ha paura di cambiare sempre, comunque, e quindi scende in piazza, a maggior ragione su un tema così sensibile come quello del matrimonio e, ripeto, dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, che prefigura un possibile cambiamento della struttura sociale o della percezione della struttura sociale molto forte. Posso capire che questo per molti francesi sia inquietante, perché non lo deve essere. È giusto, no, ma è giusto che si inquietino, è anche giusto che noi pensiamo che le strutture sociali mutano al di là della volontà delle persone, non si arresta la mutazione delle strutture sociali scendendo in piazza. Se il cammino è questo, il cammino sarà irreversibile, per molti sarà doloroso, per molti sarà faticoso, ma ahimè la società, ahimè o per fortuna, secondo il punto di vista, la società verso questo si avvia. Grazie Marco Mussanè. Emanuele Iannini, buongiorno. Buongiorno. Adesso mi serviva, perché chiamo Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica all'Università dell'Aquila? Perché mi serve uno scienziato, non mi serve un sociologo. Questa mattina non chiamerò nessun militante, rappresentante di organizzazioni, difesa dei diritti, non è questo che mi interessa. Mi interessa la mutazione, il senso della mutazione. Mussanè ci ha fatto capire che in Francia, paese conservatore, al di là del fatto che sia un paese molto legato alla tradizione, il processo è iniziato. È iniziato con i matrimoni, andrà avanti con le adozioni, insomma si evolverà. Tu da un punto di vista proprio della tua osservazione, cosa sta accadendo? La sessualità umana sta avendo una sua evoluzione, sta cambiando, al di là di tutte le reazioni, i malcontenti, le disapprovazioni o le euforie esagerate, sta veramente cambiando qualcosa? Stiamo rendendoci conto che non è poi così definita la nostra sessualità? Dunque, tutte le evidenze ci confortano nell'idea che effettivamente si sta smussando quelle due rette che non sono mai state parallele, il maschile e il femminile, che sono sempre state divergenti. Questa divergenza si sta smussando e si tende sempre di più ad un cammino parallelo. Cioè, in altre parole, si tende sempre di più a riconoscere la parte di sé che appartiene a un contesto culturale dell'altro genere e così come avviene nell'altro sesso. Ora, questo inevitabilmente genera quella tensione che noi vediamo raccontata dalla cronaca, nel senso che tutte le situazioni in cui c'è una fragilità identitaria, dove c'è una debolezza del pensiero, questa debolezza del pensiero o addirittura della fede, questa debolezza del pensiero della fede si manifesta sotto forma di violenza, che è la vera malattia di tutto questo discorso e che è appunto l'atteggiamento omofobico, cioè l'atteggiamento di imporre la propria visione del mondo con forza, anche con la forza della legge, perché ricordiamoci bene che quando si parla di matrimonio omosessuale non è che vengono con la pistola in casa e ti obbligano a sposare un uomo o una donna se tu sei una donna. Il matrimonio omosessuale è semplicemente il riconoscimento, o comunque l'unione tra omosessuali è il riconoscimento della libertà di ciascuno, che ciascuno di noi ha, di scegliere il proprio partner e di essere riconosciuto per questo dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei diritti. Ma non è una costrizione nei confronti di nessuno, quindi voler costringere a seguire le proprie idee, che possono essere assolutamente rispettabili, che sono assolutamente rispettabili. Uno può essere contrarissimo quanto vuole all'omofobia, così come ai cacciatori di farfalle, esattamente ugualmente rispettabile, ma l'imporre la propria idea con la violenza della legge è una manifestazione di debolezza, non di forza, è una manifestazione di terrore, il terrore che in qualche modo la propria identità venga meno perché c'è qualcuno che fa qualche cosa che non rientra nelle proprie, nei propri Ecco, stessi. Tu da scienziato, però, Emanuele, l'identità può essere imposta, può esserci qualcuno che dice io sono il tutore di una legge di natura, questo principio astratto e folle, capito? In realtà tu non sei un sociologo e quindi non ti chiedo letture di questo tipo, ma questo processo è inarrestabile secondo me, le mutazioni che diceva prima Moussanet nella società che tutti temono avverranno necessariamente, avverranno proprio nell'ordine di questa capacità e possibilità che ha la cosiddetta natura a un certo punto di esprimersi in maniera non più nascosta, non più clandestina. E quando le persone cominceranno sempre di più a dire ma per noi la sessualità è qualcosa di transito, come ci dicevamo noi qualche settimana fa, possiamo cambiare idea, svegliarsi la mattina, decidere ogni volta, ogni giorno quello che a noi piace, quello che a noi non piace, è chiaro che questo a un certo punto determinerà dei cambiamenti radicali in tutta l'organizzazione sociale. Dunque, se devo fare appello all'animo futurologico, io sono non d'accordo ma di più, nel senso che sia questo un elemento di progresso nel fatto che non ci scontriamo più sul terreno del letto riguardo alla nostra identità umana, ma troviamo altri territori dove come dire, discutere. Ecco, questo è un processo assolutamente non inarrestabile, di più è in atto, perché io ho la sensazione che tutta questa querella sugli omosessuali, sui matrimoni e noi di fatto sia sostanzialmente sostenuta da motivazioni che sono molto più di ordine politico che non legate alla reale percezione della gente. Io ho la sensazione che la gente sia largamente, nella stragrande maggioranza, ormai capace di convivere, accettare, ma non c'è nemmeno bisogno di usare la parola convivere, perché cosa vuol dire? Non è che uno convive con i propri vicini di casa, è la vita, è fatta proprio di questo. Allora, fermiamoci solo un secondo, Emanuele, devo fermarti solo un attimo perché abbiamo già rubato 2 minuti la linea delle informazioni della borsa, riprendiamo fra un istante. Melog, la realtà condivisa. Temiamo veramente tanto che l'umanità sia popolata da tutti gay, come scrive un ascoltatore. Chi farà più figli se diventeremo tutti gay? Ecco, questa è la sintesi più radicale della paura latente che serpeggia nell'umanità. Francesco, buongiorno. Buongiorno Gianluca, sono Francesco Rotolo da Napoli. Io volevo brevemente riportare un attimo insomma la mia idea in relazione a questa tragedia sociale che è culminata con questo tentato suicidio di questo ragazzino. Che avviene sempre più spesso, perché alla fine anche gli strumenti dei social media permettono di amplificare e velocizzare anche il rapporto di vessazione e di uscita dalla testa della persona che ne è vittima. Esattamente, esattamente. Io veramente sono spaventato a vedere io una bimba piccola che domani, mia figlia, insomma, possa ecco essere oggetto di condivisioni di foto su WhatsApp, Facebook. Vabbè, comincia a abituarti che questo avverrà. Comincia a abituarmi che questa è la realtà, questa purtroppo è la realtà. Io volevo un attimo soffermarmi in relazione a questa tragedia che è avvenuta anche dal punto di vista della famiglia di questo ragazzo. Perché ho sentito dai vari media che questo ragazzo, insomma, al di là delle sue scelte sessuali, viveva la sua sessualità in maniera un po' eccentrica, smalti. Questo è l'altro, il ragazzo di pantaloni rosa. Vabbè, sì, sì. Esatto, pantaloni rosa. Si vestiva in maniera eccentrica. Esattamente, e io dico questo. Non significa che uno sia gay, uno può anche decidere di vestirsi come vuole. Assolutamente, io infatti questo volevo dirti, che io Da padre, voglio dire, avrei difficoltà a gestire una situazione del genere, anche innanzi a estremizzazioni anche di eterosessualità, cioè nel senso che se mio figlio non... Benvenuto nel mondo dei padri, vedrai, tua figlia è piccola, quando crescerà dovrai anche gestire problemi del genere. Ma qual è il tuo problema? La difficoltà di gestire? Il problema, ti ripeto, per me, il problema del padre di questo ragazzo, al di là delle sue difficoltà, voglio dire, forse giustificate, di non accettare la sua scelta sessuale, ma anche la difficoltà di gestire in modo così, insomma, plateale la sua... Insomma, guarda che gestire i figli perfetti è una passeggiata, gestire i figli con dei problemi è il vero lavoro del genitore. Bravo. Però vedi che ci sono tanti fenomeni, vedi che non so, i ragazzini che seguono Modemo. Sì, ma adesso qua te devo fermare perché sennò usciamo dal seminato. Emanuele Iannini, perché so che hai poco tempo, però volevo fermarti su alcuni punti. Io prima ho letto quell'SMS che però sintetizza la paura di tante persone. La gaglizzazione, usiamo questo termine che non è il migliore, della società, che tu hai detto ormai irreversibile, ma non gaglizzazione, l'uscita dallo schema fisso maschio-femmina, femmina-maschio, ecco, porterà all'estinzione della società. Pensate, in un momento in cui il problema è la sovrappopolazione e la scarsezza delle risorse, si pongono il problema che non nasceranno più figli. Ecco, da un punto di vista puramente demografico e malthusiano direi sarebbe una grande trovata in qualche modo, ma naturalmente è una battuta. No, naturalmente non succederà, perché la omosessualità non è una malattia e non è una malattia contagiosa, nel senso che l'orientamento sessuale di ciascuno non di è un'epidemia, capito? No, assolutamente no, nulla a che vedere con questo. E quello che invece è un'epidemia, quello che invece è malattia, quello che invece è il tratto psicopatologico è l'omofobia. Quella è senza dubbio un'epidemia carsica che è sempre presente, che diventa violenta e ferata anche contro se stessi, come l'episodio di Parigi racconta, proprio perché questa si contagia, perché lì c'è un bisogno, come dicevamo prima, di sentirsi parte di un gruppo in quanto nemici di qualcosa, e in questo caso dell'omosessualità. Quindi, e poi diciamoci chiaro, Emanuele, i più strenui combattenti viscerali e radicali dell'omosessualità in realtà è un problema che vivono loro, il non ammettere la loro stessa omosessualità, questo è da manuale proprio. Beh sì, dico, senza arrivare a questo, perché è vero, questa è una cosa che viene sempre ripetuta, ecco, quello che è evidente che ci sono dei contenuti che sono assolutamente definibili come patologici. Cioè la malattia è quella, non è certo l'omosessualità. Un'altra cosa, Emanuele, anche proprio da un punto di vista tuo clinico, la gente pensa che quando uno parla di omosessuale improvvisamente è una persona che si veste di paillette, i lustrini, si mette tacchi a spillo. L'omosessualità è vissuta in una gamma molto vasta e indefinibile di comportamenti. Un omosessuale può anche fare figli, può anche andare con delle donne, può avere delle mogli, delle fidanzate, essere marito, essere omosessuale. Cioè è talmente diffuso ormai questo comportamento, mi sembra ipocrita far finta che non sia così. No, è vero, tant'è vero che una delle tesi che faremo, che discuteremo quest'anno con i miei studenti all'Aquila, è proprio sui nomi, sulla nomenclatura di qualche maniera di questo mondo, perché ci siamo resi conto che non abbiamo nemmeno, è talmente variabile, è talmente fluido, che non abbiamo nemmeno dei nomi chiari dal punto di vista, come dire, della classificazione, perché il clinico di mestiere fa questo, classifica, quindi abbiamo per forza bisogno di una tassonomia. Ebbene, non ce l'abbiamo, proprio perché è estremamente fluido questo mondo, e questo è quasi un buon segno in qualche modo, il fatto che ci sia questa difficoltà a dare dei nomi, a dare delle etichette, perché indica che uno dei segni della nostra epoca è proprio questa rinuncia a degli schemi comportamentali e sessuali che hanno finora generato angosce, perché questo va detto, è molto più angosciante essere costretti all'interno di uno schema comportamentale fisso che non ammettere una fluidità che è appunto il portato più evidente della nostra società e di quello che sarà in futuro. Ti ringrazio, Emanuele, so che tu hai fretta, grazie infinite, mi sembra che A corollario di quello che ha detto il professor Iannini, mi scrive un ascoltatore: Radio 24 c'è un pensiero unico, inteso come approvazione di matrimoni e adozioni gay. Manca un'economia tra conduttori e speaker e una simile unanimità. Beh, qual è il problema? Vuol dire che è una radio civilizzata, è una radio che non si pone problemi, che pone i suoi problemi su altri livelli, non quello certo dell'accettazione del fatto che ognuno faccia la propria sessualità, della propria facoltà di amare, di innamorarsi e di follemente perdersi un problema soltanto suo. Calì, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco Calì. Volevo intervenire solamente nella questione. Lei di dov'è Calì? Che il suo nome è esotico, ma non so definirne l'origine. Io sono del Marocco. Marocchino. Però sono vissuto tanti anni qua, sono 20 anni che sono qua, laureato qua e studiato qua. Benissimo. Solamente volevo solamente mettere le mie opinioni, le riunioni, come se le cose delle gay. In teoria stiamo andando contro la natura che ci ha creato il creatore, perché se ci ha creato uomo o donna... Vabbè, questo è un suo punto di vista, sai, io... Sto parlando del mio punto di vista. Sì, sì, chiaro, il suo punto di vista religioso, ma io non ho anche molti dubbi sul fatto che il creatore si ponga il problema se uno vada con un uomo o con una donna, se è un creatore avrà altri problemi. No, perché dopo se va contro la natura... Ma la natura qual è? Qual è la natura? È la natura che ci deve essere uomo e donna e devono essere il matrimonio tra di loro. E dove sta scritto? Non può essere uomo e donna e donna, perché vabbè, dopo... Scusi Calì, lei ha una sua visione che io rispetto moltissimo, che è una visione legata a una sua fede perché religiosa. Stiamo facendo una grande fumata adesso nel mondo e in queste cose qua, che secondo me, dal punto di vista non solo mio, da altra gente che stiamo vedendo adesso che ne sono in strada, in manifestazione, che sono contro questo, perché vuol dire che è contro l'umanità, è contro... la cosa che ha creato il creatore, cioè capisci, sono questo qua vuol dire. Allora, vabbè, questo è il suo punto di vista, io la penso diversamente, in natura non esiste il genere definito, l'omosessualità fa parte delle infinite variazioni della natura, perché sennò non ci sarebbe, non sarebbe, se ci sono gli omosessuali vuol dire che in natura esistono, e cosa fa? In certi paesi tagliano la testa, li impiccano, li castrano, e gli fanno cose orribili, io spero che questo non accada, spero che questo non al suo pensiero. L'uomo non deve proprio essere, ci dovrebbero essere delle regole severe contro uomo o donna donna. Scusa, secondo lei dovrebbe essere una legge che obbliga le persone la loro scelta sessuale, se un uomo piacciono gli uomini, una donna piacciono le donne, perché la legge vuol dire no, cambia, non si pone questo problema. Va bene, è stato molto gentile, grazie. Vabbè, pensiamo diversamente Calì, l'ho fatta parlare, ma non è detto che mi abbia convinto. Melog, la realtà condivisa. Mi fa proprio sorridere, se non fosse per la gravità dell'argomento che molte volte sfocia in episodi drammatici, mi farei veramente le risate. Io che nella vita sono sempre stato accusato di essere un bieco reazionario, mi leggo messaggi tipo: Gianluca, ma che cazzo dici, il marocchino ha ragione, è contro natura, che cazzo, sei gay anche tu? Poi: sono davvero angosciato, a me piace solo la figa, scrive un altro ascoltatore, minchia che razza di cazzate che tocca sentire. Poi la gente, perché entra questa sindrome di Tourette, che è una sindrome che porta le persone a avere comportamenti volgari, improvvisamente si trova il turpiloquio come unica maniera per contenere la rabbia, per il fatto che si dicano cose secondo me molto semplici, molto banali. Dice un'altra persona, dice: questa trasmissione ha senso unico, scandalosamente ha senso unico, questo professore è una vergogna, è uno dei più grossi sessuologi con riconoscimenti internazionali, una gloria per il nostro paese. Dice semplicemente che è ora di smettere di porsi problemi e di ordine ideologico o filosofico su un fatto che è quanto mai banalmente e naturalmente accettabile, il fatto che le persone facciano le loro scelte sessuali. Poi su questo credo che si arrabbiano molto, e sono sempre più le persone che devono ribadire il fatto, uomini soprattutto, che a loro piace quella cosa lì. Piace a tutti, non è che in questo versante faccia proprio schifo, però esiste anche la leggerezza di ammettere che altri piacciono altre cose. Marco, buongiorno. Sì, salve. Eccomi qua. Niente, io volevo un attimo obiettare sul fatto che, diceva il primo ospite, che il fatto di dar diritti alle minoranze è sempre un segno di democrazia e tutto il resto, perché comunque è vero anche che qualche volta questa democrazia va a ledere un pochino quelle che sono i diritti di altre coppie. Ma io porto un esempio molto, molto semplice e personale. Io sono sposato da 11 anni, permetto, ripeto, che non ho niente contro i gay o tutto il resto. Guarda, io sono sposato in chiesa, pensi un po', lo dico, mica me ne vergogno, quindi sfiguri, no, ma questo mi fa essere leggero lo stesso e sorridere io sulla rabbia degli altri. Esatto, cioè a me le cattiverie non piacciono, per cui non mi scrive adesso niente. Uno, se scrivo Gianluca Finocchio cosa dici? Boh, che ne so, è il suo punto di vista. Dicevo prima, a me fa più paura la plateizzazione praticamente del matrimonio, perché comunque se devo dare una colpa è quello di aver sempre messo in piazza il fatto che loro sono omosessuali. Dicevo prima il fatto dei privilegi che si danno alle minoranze. Io sono sposato, come dicevo prima, da 10 anni, mi è capitato di andare al pronto soccorso con una bambina di 6 anni, mi hanno fatto pagare il ticket. Figli di coppie che convivono, okay, non pagano il ticket perché non vengono sommati i redditi. Questo cosa voglio dire? Che prima si aveva il matrimonio, poi si è passata alla convivenza, ora dalla convivenza vogliono praticamente portare tutti i diritti del matrimonio all'interno delle coppie di fatto. Io dico che questo rincorrere le minoranze a volte va a rischio di peggiorare la vita di tutti. Io la capisco, sa, quello che dice lo capisco molto. Capita quando uno porta un figlio all'asilo, si accorge che la cosiddetta ragazza madre, che in realtà ha una vita normalissima come la nostra con il suo compagno, solo che non è sposata, ha un posto avanti rispetto a noi che in realtà siamo regolarmente sposati. Sono tutte cose che capisco, poi vorrei vederla con un respiro maggiore la vicenda, vorrei capire e far riflettere le persone che alcuni processi sono irreversibili, non si fermano con le leggi, con le norme, invocando le leggi divine. Poi è chiaro, nell'aggiustamento ci sarà necessariamente, si comincerà a tener conto quando il sistema stesso capirà che oggi come è organizzata la società è un modello arcaico, poi si entrerà nel piano dei diritti piccoli, spiccioli, come ha detto giustamente lei, la parte economica, la parte previdenziale, la parte assistenziale, via dicendo. Ma adesso è il grande progetto che è messo in discussione, non esiste più una legge assoluta che regola i comportamenti affettivi degli umani. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente, sì. Chiamavo per raccontare la mia storia. Ascoltiamo. Allora, io niente, ho scoperto che mio papà era omosessuale, ho scoperto nell'adolescenza. Vabbè, quanti figli eravate? Siamo in 3 figli. Quindi aveva una famiglia regolare, normalissima e benedetta? Sì, figlio padre era un emigrante. E l'ho scoperto malamente, perché da adolescenti i ragazzi sono molto cattivi. E mi ricordo il padre di un ragazzo, c'erano già delle storie in giro, però le cose le concepisci sempre male, quell'età lì non avevo chiare bene le cose. Quanti anni aveva lei? Facendo la breve, lui mi ha detto stai zitto che sai che tuo padre è un culatone. Così io l'ho scoperto così. E poi ha parlato con suo padre di questa cosa? Come? Ha mai parlato con suo padre di questa cosa? No, poverino, io dico dispiacere che ho che... Ma no, scusi, non voglio entrare, ma che fine ha fatto suo padre? È morto 5 anni fa, è morto col suo segreto, ecco. Ma lei si è fidato di quello? Scusa, adesso voglio dire, ma lei si è fidato di quello che l'ha detto una persona? No, mi sono fidato di quello che mi ha detto mia madre. Ah, sua madre lo sapeva, sua madre l'ha ammesso. Sì, l'ho ammesso, l'ha imparato anche lei. Sono sposati 19 anni in campagna, ecco, è per quello che io sono favorevolissimo a che dovrebbero non esserci queste cose. Quindi lei vede suo padre che è stato costretto a sposare una donna in realtà andando contro le proprie personali? Ma sì, da quello che so, dalle poche cose che so, anche mio nonno so che una volta l'aveva picchiato, i fratelli l'hanno sempre calcolato. Queste cose però le imparate col tempo, le imparate crescendo. Però è un episodio frequente nella società arcaica. L'omosessuale deve nascondersi, apparentemente avere un modello regolare, ma vivere con tormento la sua condizione. Però di suo padre non credo che debba aversene a male. Bene o male ha allevato voi figli, va tenuto insieme, la famiglia l'ha tenuta. Io invece mio papà lo stimo moltissimo. Ha sofferto lui, ma non è che a voi va tolto nulla alla fine, al di là della bestialità dei vicini. In un altro, in altri tempi la vedevo in un'altra maniera, però capisce la giovane età. Col tempo, crescendo, invece ho capito che si è sacrificato molto, moltissimo. Viene ancora nel magone parlandone. però non dovrebbero esserci queste cose. Ma suo padre sicuramente era una brava persona. È chiaro che suo padre non poteva reprimere quella che era la propria natura affettiva. Certo. La maggior parte degli uomini sposati tradiscono le mogli tradiscono i mariti. E suo padre, quando lo faceva, non lo faceva con donne, lo faceva con uomini. Questa era la sola differenza. Ma non per questo, secondo me, lei deve sentire suo padre come oggetto della vergogna. Assolutamente. Grazie. Patrizia, buongiorno. Patrizia, no, è morta, via. Giorgio. Ah, salve Nicoletti. Intanto me lo conceda di farle i complimenti per la maniera garbata con cui conduce questa trasmissione. Io sono un grande ammiratore. Ho imparato a mantenere l'incazzatura a un livello subito. Ma lo sa cos'è? Che io in altri orari su Radio 24 sento dei altri conduttori. Vabbè, adesso andiamo al punto. C'ho un minuto. Quindi vabbè, mi piace molto come. C'ho un minuto di tempo. Ecco, un minuto. Allora, niente, solo questo. Intanto volevo dire. È giusto che chiunque vada in piazza, cioè è ammissibile che chiunque vada in piazza per manifestare qualunque cosa. Ma scrivimi un attimo, devo segarla perché Ilaria, voglio chiudere con Ilaria. Ilaria. Salve, buongiorno. Senta, io ho un figlio gay, ormai l'ho scoperto quando insomma era all'università . E me l'ha detto lui ed è stato bellissimo. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è perché non poteva vivere una vita come gli altri. Sono delle persone eccezionali, sensibili, e ce ne vorrebbe tanti di queste persone. E poi voglio dire anche che l'amore non ha sesso. L'amore è amore, basta. Vabbè, una mamma realizzata e contenta che alla fine dimostra che non è che bisogna farne sempre una tragedia. Certo, avrà una vita lievemente più difficile degli altri, ma almeno vivrà felicemente la propria affettività. Grazie, a domani.